Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Allora, penali in arrivo per le banche che ostacoleranno la portabilità dei mutui. Vi ricordate, no, che cos'è una surroga? Quante volte ne abbiamo parlato a Salva Danaio? È il trasferimento del mutuo dalla nostra banca ad un'altra che evidentemente ci ha proposto delle condizioni migliori. Ne sono state fatte tante nel nostro paese, ma spesso le banche cedenti, chiamiamole così, ostacolano la pratica con lungaggini il più delle volte del tutto ingiustificate. E allora il decreto fiscale che è stato varato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri ha stabilito che se la surroga del mutuo non si perfeziona entro 30 giorni dalla partenza dell'istruttoria per il trasferimento, la banca cedente sarà tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. E allora abbiamo una nuova norma che arricchisce la cornice già piuttosto ricca della disciplina della portabilità. In sostanza però questa ci pare una buona notizia, perché oggi i consumatori hanno una carta in più se la banca dalla quale vogliono uscire trova delle scuse per ostacolare il passaggio all'altra banca. Partendo da questa novità, oggi come sempre risponderemo alle vostre domande sui mutui all'800 24 00 24. Certo, non rispondo io, ma lo faranno Roberta Nedda, direttore marketing Mutui Online, con il quale ci ritroviamo. Roberto, bentornato. Grazie. E ben trovato ad Andrea Corsato, direttore commerciale della rete Gabetti Finance, gruppo Trifinance. Poi spiegheremo anche tutta questa ampia rete che cosa fa esattamente. Ben trovato, perché ci eravamo visti qualche anno fa, forse, a Salva Danaio. Grazie mille, buongiorno a tutti. Il numero per intervenire ve l'ho ricordato, ma lo conoscete bene. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi, che è il 349-238-6666. Altri numeri sono quelli della borsa, una borsa che oggi recupera quasi totalmente quanto ha perso ieri. In Europa abbiamo Parigi in rialzo dell'1,80%, abbiamo Francoforte che sta guadagnando l'1,58%, Londra guadagna l'1,41%, Milano, FTSE MIB più 1,74%, una buona giornata, perché abbiamo anche un indicatore economico europeo che è stato diffuso questa mattina che è piuttosto buono, l'indice che misura la fiducia dei direttori di acquisto delle aziende manifatturiere, che è risultato superiore alle attese. Non c'è stato grande movimento sul mercato valutario, stabile il rapporto euro-dollaro a 1,40,60. Attendiamo, per la verità, la riunione di domani della Banca Centrale Europea, e attendiamo anche il dato sulla disoccupazione americana, che verrà diffuso domani e non venerdì come accade di solito, il primo venerdì del mese, perché venerdì la borsa americana sarà chiusa per l'Independence Day, che si festeggia il 4, ma la borsa anticipa la sua chiusura. Un'occhiata a Piazza Affari, i migliori titoli di stamattina, visto che tra l'altro parleremo di banche, sono proprio due banche i migliori titoli della giornata, almeno in questo momento. Monte dei Paschi e Intesa San Paolo stanno guadagnando 3 punti percentuali. Anche il Banco Popolare sta continuando a correre da qualche giorno, ha un report positivo di HSBC e anche oggi sta guadagnando il 2,5 punti. Continua ad andare bene il cemento, Buzzi Unicem più 2,78, Telecom più 2,34, Mediobanca, Tenaris, Eni, Luxottica, tutti in rialzo di oltre 2 punti, mentre con il segno meno abbiamo Geox stamattina che sta perdendo lo 0,29%. Il petrolio è ancora intorno ai $70 al barile, non si riesce a scrollare questa soglia. Noi però lasciamo la borsa e andiamo al tema di questa mattina, un tema per niente nuovo per Salva Danaio. Parliamo di mutui, ma sentiamo qualche dettaglio in più rispetto a questa novità che è arrivata venerdì con il decreto fiscale del governo. Arrivano le penali per le banche che ostacolano la portabilità. Lo ha stabilito il decreto fiscale varato venerdì scorso dal Consiglio dei Ministri. Le banche che ritarderanno la surrogazione dei contratti di mutuo oltre i 30 giorni dalla richiesta dovranno pagare una penale pari all'1% del mutuo per ogni mese o frazione del mese in ritardo. Ecco dunque l'ennesimo intervento del governo su una pratica introdotta più di 2 anni fa dal decreto Bersani, che aveva definito gli standard per il trasferimento del mutuo a costo zero per i consumatori. Pratica per la quale sono stati necessari ben 7 interventi di modifica al fine di chiarire e migliorare la procedura. Fino ad oggi sono oltre 30.000, secondo i dati dell'ABI, i risparmiatori che hanno traslocato con successo il proprio mutuo da una banca a un'altra. Ma nonostante i progressi, sono ancora numerosi i disagi e i ritardi che rischiano di indebolire le opportunità per i mutuatari, in particolare per coloro che negli ultimi mesi, complice la crisi finanziaria e i tassi volati alle stelle, hanno visto la rata del mutuo esplodere. Dall'inizio dell'anno la situazione si è nettamente ridimensionata, ma le incertezze che ruotano intorno al sistema mutui continuano ad alimentare l'eterno conflitto tra banche e consumatori. Tra le questioni ancora irrisolte, l'applicazione del tetto del 4%, la misura introdotta a gennaio con il pacchetto anticrisi e mai applicata dal sistema bancario, misura con la quale il governo ha chiesto alle banche di restituire ai titolari di mutui a tasso variabile sottoscritti prima del 31 ottobre 2008 la quota di interesse eccedente questa soglia. Proprio la scorsa settimana l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, ha inviato una circolare a tutte le associate invitandole ad accettare i moduli di autocertificazione presentati dai clienti. Moduli che inizialmente dovevano servire soltanto per i mutuatari esclusi dall'elenco dell'Agenzia delle Entrate che certificava gli aventi diritto alla restituzione. Ma anche chi ha regolarmente presentato il modulo non si è ancora visto accreditato sul conto corrente quanto gli spetta. Insomma, una partita ancora del tutto aperta. Insomma, il tema piace e ancora una volta le telefonate che stanno arrivando, che cominciano ad arrivare all'800 24 00 24 lo dimostrano. Davvero la parola mutuo a salvadanaio è la parola magica. Potremmo fare tutti i giorni una puntata su questo argomento e troveremo il modo di animare il dibattito. Allora, partiamo da quest'ultima novità che è arrivata, come vi ribadisco, dal decreto fiscale di venerdì scorso del governo. Insomma, arriva questa penale per le banche che non daranno una sufficiente consulenza alla propria clientela per il trasferimento del mutuo. Allora, Roberto Nedda, riprendo con te questo discorso sul tema delle surroghe. Siamo andati tante volte a salvadanaio, ne sono state fatte nel corso dell'ultimo anno credo 34.000, adesso non mi ricordo, questa è l'ultima stima dell'ABI, non mi ricordo a che periodo si riferisse. Ne sono state fatte tante, quindi condotte con successo. Il tema è capire però, per portarla, per condurla in porto con successo, quanto tempo ci vuole. Abbiamo già ricordato che in sostanza il decreto fiscale è intervenuto su questo, perché ancora il governo nota che ci sono delle lungaggini evidentemente su questo punto. Secondo te per quale motivo è stato necessario intervenire? Perché molti consumatori forse hanno mancato qualche occasione migliore sui tassi? Che cosa può essere successo, Roberto? Diciamo che in generale, come diceva già la vostra scheda d'inizio, nonostante la surroga sia un provvedimento, comunque una possibilità introdotta ormai più di 2 anni fa, a oltre 2 anni di distanza sono dovuti esserci tutta una serie di interventi di chiarimento, di accordo e addirittura di legge successivi per blindare questo procedimento, di modo che le banche che volevano cercare di evitare di perdere clienti in questo modo mettessero i bastoni tra le ruote, le banche che invece più competitive cercavano di offrire condizioni migliori ai clienti. Da qui quindi lungaggini burocratiche, tempi lunghi per le risposte, per l'invio dei documenti, addirittura 2 mesi e passa prima di dare la disponibilità di un proprio funzionario perché si recasse all'ufficio del notaio. Insomma, tutta una serie di accorgimenti in parte scorretti che rallentavano l'operazione, e dato che in questi ultimi 6 mesi i tassi abbiamo visto quanto siano scesi, ovvio che chi voleva approfittare nel prima possibile, magari per alcuni mesi ha dovuto pagare dei tassi più elevati, con degli spread più elevati, prima di poter passare al nuovo mutuo. Da ultimo, pochi mesi fa, c'è stata anche la sanzione contro una grossa banca straniera, da parte dell'antitrust, ma diciamo che è stato un po' il simbolo, perché poi altre situazioni simili sotto esame ci sono, ed è stata specificamente riferita proprio a dei comportamenti così di contrasto al normale più veloce svolgimento delle attività di surroga. La surroga di per sé è un procedimento un po' complesso, ma adesso tante banche ormai si sono abituate a gestirla, e soprattutto si sono abituate all'idea che è un provvedimento che farà parte del nuovo scenario competitivo. Quindi di base le banche cercano di non contrastare più di tanto l'operazione, e eventualmente vedono di capire se possono fare qualcosa per tenere il cliente, che sarebbe la cosa più naturale. Detto questo, ovviamente chiariamo che questo provvedimento di cui si parla non è ancora operativo, perché esatto, non è inserito nel disegno in di legge, ma bisogna aspettare i 60 giorni da quando entrerà in vigore la legge stessa. Tra l'altro vediamo se poi il decreto verrà ulteriormente modificato, se verranno poste fiducia, esatto, o meno. Ovviamente in caso di fiducia sarà adesso i termini operativo prima, sembrano altrimenti ancora piuttosto generali. È molto chiaro sull'ammontare della penale per la banca che non rispetta i tempi, appunto, relativamente a tutta l'istruttoria, a tutta l'operazione. Ovviamente niente viene detto rispetto ancora all'aspetto che dovrebbe essere piuttosto chiaro, cioè che comunque la portabilità, la surroga deve essere fatta a costo zero per il consumatore, perché c'è già qualche ascoltatore che ci chiede chiarimenti su questo. Magari ci ritorniamo fra un altro minuto. Andrea Corsato, direttore della rete Gabetti Finance, magari ricordiamo un po' che cosa fa la vostra società, perché in sostanza è un'integrazione di reti di mediazione creditizia. Sì, a marzo dell'anno scorso è nato questo gruppo Trifinance dall'unione di due gruppi, UBH e Gabetti, che racchiudono in realtà 1600 agenzie immobiliari e circa 150 agenzie di mediazione a credito a marchi Rexfin e Gabetti Finance. L'obiettivo naturalmente è quello di servire al meglio la rete di agenzie immobiliari, quindi noi ci concentriamo molto su quello che è l'acquisto di prima casa. Esattamente. E infatti le surroghe all'interno del nostro gruppo rappresentano circa un 4%, nel senso che non è sicuramente il nostro core business principale quello di occuparci di surroghe. Mm-hmm. Confermo però quello che diceva il mio collega, che il problema in effetti è sempre stato quello nei tempi, soprattutto dei conteggi istintivi che dobbiamo ricevere dalle banche per poter andare poi a chiudere un mutuo e aprire l'altro. Questo porta molte persone a mollare la presa dopo due mesi anche di attesa per avere. Certo. Quindi questo decreto sicuramente siamo sicuri che aiuterà anche la surroga. Ecco, in termini generali, a prescindere diciamo dal provvedimento di cui parliamo oggi, come sta andando per quello che riguarda la vostra rete di mediazione creditizia, che è piuttosto ampia, come ci diceva, appunto, ha messo insieme due grandi realtà. Le erogazioni in questo momento come funzionano? Qual è il rapporto con la banca? Siamo ancora in difficoltà perché continuiamo a denunciare la stretta del credito che le banche negano, i piccoli imprenditori denunciano, qua il consumatore che invece deve banalmente, per parlare di un'operazione banale quando si parla dell'acquisto della casa, comprare casa, come se la sta cavando in questo momento? Beh, dopo l'euforia degli anni passati in cui veramente il mercato dei mutui era a rialzo, sotto gli occhi di tutti, la stretta c'è ancora, c'è difficoltà ancora nell'erogare soprattutto velocemente quelli che sono i mutui e soprattutto quelli dell'acquisto per la prima casa. Dobbiamo anche sottolineare che qualche segnale ultimamente ce lo abbiamo, per cui stiamo pensando che da qui alla fine dell'anno l'indice tornerà di nuovo positivo. Quest'anno comunque è stato un mercato negativo per tutti. Le nostre reti, parlo per Gabetti Finance, sono reti giovani, quindi reti comunque in crescita. Noi ci siamo posti l'obiettivo di porci sul mercato in maniera completamente diversa, anche grazie poi a un altro disegno di legge, quindi a una delega al governo dove cambieranno le regole di gioco anche per quanto riguarda la vostra professione. Esatto, l'intermediazione finanziaria, per cui ci siamo posti a fare quello che deve fare un vero broker professionista, quindi stiamo cercando di raccogliere sul territorio nazionale, sono molti quelli che sono gli intermediari finanziari professionisti e professionali, per poter fare una rete che superi questo momento sicuramente di crisi, insomma. Benissimo, io direi di cominciare ad aprire anche i microfoni ai nostri ascoltatori che già ci stanno chiedendo chiarimenti rispetto al provvedimento di cui volevamo parlare questa mattina. Ovviamente le risposte che daremo saranno solo quelle che abbiamo. Tra l'altro, quello che devo ricordare è che da domani con il Sole 24 Ore inizia le uscite speciali su questa manovra d'estate, sul decreto fiscale. Si tratta di 5 uscite per illustrare appunto cosa cambia per cittadini e per le imprese, dagli aiuti per chi vuole mettersi in proprio, dalla detassazione per gli investimenti in macchinari, dal tetto per utilizzare i crediti fiscali e i controlli fiscali. Ci si concentrerà anche su consumatori e risparmiatori, lo faremo anche noi di Salvadanaio, in particolar modo nella puntata di lunedì prossimo, appunto, con la collaborazione del Sole 24 Ore del lunedì. Noi tra l'altro già in questi giorni abbiamo cominciato ad esplorare questo decreto fiscale. Ieri, vi ricordo, siamo ritornati sulla commissione di Massimo Scoperto e oggi invece andiamo alla novità sui mutui. Sentiamo Nicolino da Udine. Nicolino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Io volevo chiedervi una cosa. Siccome ho fatto la surroga più di un anno fa, cioè a marzo dell'anno scorso, sì, grazie anche al vostro consiglio ho fatto un affare quella volta e va bene anche adesso. Meno male. Affare, non è quello il problema. Ma il problema che mi suppongo è questo: siccome era anche quella volta lì era a costo zero la surroga, sì, però io ho avuto un battibecco, diciamo, col notaio, con la banca quella volta lì, perché loro dicevano, il notaio dice a me chi mi paga? Io non lo so, cioè io dico la legge dice che io devo fare a costo zero, e il notaio dice lei non mi paga, la banca non mi paga, chi mi paga? alla fine tutto un discorso così, poi sono dovuto a pagarlo io, sì, il notaio. Ma siccome si dice a costo zero, adesso volevo sapere, è a costo zero veramente o il notaio può fare, cioè non so. Cioè, non è solo il costo della banca, che la banca va bene, me l'ha fatto a costo zero. L'atto notarile serve, Nicoline, per questo trasferimento. Il tema è che questa spesa avrebbe dovuto sostenerla la banca subentrante, Roberto Aned, esatto, la subentrante. E quindi quanto ha speso Nicolino? 600 euro. Che sono tutto sommato anche. E tra l'altro è più o meno una delle tariffe più basse che normalmente i notai ormai applicano. La banca mi ha offerto, praticamente, conoscendo il notaio, perché era un loro correntista, praticamente, gli ho detto, mi fanno, lei ha un notaio? Gli ho detto, notaio ce ne sono finché vuole, ma se mi date una mano, gli ho detto di trovarmi un notaio che mi prende pochi soldi. E allora mi hanno trovato il notaio, 600 euro. Va bene che sono pochi per quello che c'è in giro, ma sono tanti per me. Ah, sì, Nicolino, certo. No, anche soprattutto in relazione al fatto che la normativa prevede che per il consumatore l'operazione venga fatta a costo zero. Detto questo, non è una novità quella che ci racconta Nicolino, Roberto, Ned, comunque sì, però va costo detto zero che puro. Se effettivamente era un'operazione di surroga, quindi non superiore a quello che era l'importo residuo del mutuo, Nicolino ha comunque la possibilità di rivalersi sulla banca e richiedere integralmente il rimborso, come è già successo per altri che anche all'inizio, quindi ancora prima di Nicolino, quando le cose non erano del tutto chiare, si sono trovati a dover pagare il notaio. L'operazione è a costo zero e il notaio va pagato a carico della banca subentrante, della banca nuova, che è quella che acquisisce il cliente, che è poi il motivo per il quale qualche banca magari le surroga, non le fa, perché non vuole sopportare questi ulteriori costi. Però per le banche che lo fanno deve essere un costo a loro carico, quindi Nicolino tuttora ha il diritto di richiedere il rimborso, certo, lo stesso, eventualmente può farsi assistere anche da un'associazione dei consumatori. Infatti Nicolino ci provi, tanto voglio dire, è già passato un anno, ormai non ha, come dire, niente da perdere, magari però fa passare qualche ora di così un po' di fibrillazione alla banca, perché è anche giusto. Massimiliano della provincia di Caserta, benvenuto. Buongiorno. Io volevo qualche informazione nel merito, perché ho contratto un mutuo per l'acquisto della casa fine 2003, quando i tassi storicamente erano bassissimi. Sì. In previsione di un presumibile aumento degli stessi, ho preferito contrarre il mutuo a tasso fisso presso un noto istituto bancario. Infatti. Diciamo così, la cosa si è potuta, durante le vostre trasmissioni passate, anche nei mesi scorsi, quando si è parlato di questo argomento, ho sentito parlare sempre di surroghe per quanto riguarda mutui contratti a tasso variabile. Io volevo sapere, prima, se fosse possibile comunque usufruire di una surroga avendo contratto un mutuo a tasso fisso, secondo, se ci sono comunque delle decisioni particolari per quanto riguarda gli istituti bancari, perché il mio istituto bancario presso il quale ho il conto corrente sì, praticamente mi sta facendo un sacco di problemi per questo fatto. Cioè, un istituto bancario può esonerarsi dal dover fare questo tipo di operazioni anche a costo zero, allora aspetti un attimo, aspetti Massimo, che non ho capito bene. Quindi praticamente lei, per esempio, ha già individuato la banca che potrebbe farle una condizione anche migliore rispetto a quella che ha già, anche se anche qui è un'altra bella questione da chiarire, perché per la mia comodità vorrei portarlo alla mia banca presso quale ho il conto corrente bancario, perché c'è una conoscenza diretta. Benissimo. Sì. C'è un rapporto di fiducia, diciamo così. Allora, per la mia conoscenza, anche nel caso in cui non venisse concesso la surroga, l'istituto che poi dovrebbe subentrare può rifiutarsi di farlo? Allora, dunque, la banca teoricamente si potrebbe rifiutare se valuta che le condizioni di questo cliente non sono di sua soddisfazione, Andrea Corsato. Sì, c'è anche da prendere in considerazione la convenienza economica di fare in questo momento questo trasferimento, perché lui ha già preso un'occasione nel 2003, credo, bisognerebbe valutare il suo tasso fisso. Sì, un tasso fisso nel 2003 secondo me sicuramente era vantaggioso, quindi questo da valutare anche visti gli spread che oggi vengono praticati per le surroghe. E comunque in ogni caso la banca cedente non può rifiutarsi, naturalmente la banca è la subentrante deve dare una delibera, quindi un parere sicuramente di fattibilità della pratica, quindi se ho capito bene la pratica dove la banca, dove il signore ha il conto corrente, dove vuole portarla, deve dare un parere di fattibilità, dopodiché l'altra banca è assolutamente obbligata a trasferirlo. Alla prima domanda invece, se può fare la surroga su un tasso fisso, assolutamente sì, ove c'è la convenienza, come abbiamo detto, per il tasso che oggi va a prendere, ma assolutamente. Questo tra l'altro, Roberto Neda, sarebbe un tipico caso di applicazione di questa penale, perché insomma se la rimbalzano un po' la palla le due banche, quindi diciamo che in questo caso c'è una sorta di resistenza, comunque di scarsa disponibilità dell'altro istituto, per quanto conosca già Massimiliano da tempo, quindi poi qui apriamo il solito discorso del rapporto sono tutti con le amici, banche, no? L'amico, però, il bancario non è mai un come amico. Dicevamo anche prima, la surroga non è vincolante per l'istituto subentrante, cioè la singola banca può decidere o meno se offrire la surroga, e a fronte anche di un cliente che la chiede può eventualmente valutare di non concederla, quindi questo, su questo purtroppo non si può forzare la banca. E poi, come diceva poco fa anche Corsato, si può tranquillamente intervenire come surroga su qualunque tipo di prodotto, quindi nel caso di Massimiliano anche passare da un fisso, magari un variabile che adesso può essere bassissimo, puntando sul fatto che i tassi rimangano bassi per diversi mesi. Eccoci ritrovati. Allora, oggi siamo ritornati sulla portabilità del mutuo, che per la verità, per la discesa dei tassi di interesse negli ultimi mesi, come dire, sono procedure che hanno perso un po' smalto, forse sono finite un po' meno alla ribalta della cronaca. Adesso il tema è quanto ci costa il nuovo mutuo che vogliamo accendere, quanto ci dà la banca. Prima eravamo abituati anche a mutui erogati per il 100% del valore della casa, adesso le banche sono diventate molto più rigide e molto meno generose. Partendo da questo, in realtà siamo ritornati sulla surroga, perché il decreto fiscale varato venerdì scorso dal governo ha stabilito che se nella procedura di surroga chiesta da un consumatore perché vuole trasferire il proprio mutuo da una banca ad un'altra che evidentemente gli fa condizioni migliori, insomma, se le banche tergiversano e perdono tempo, rischiano di pagare anche una penale dell'1% del valore del mutuo. Tra l'altro la normativa mi pare di capire che non chiarisca se questo 1% corrisponda all'1% del valore originario del mutuo o della cifra residua. Andrea, esatto. Corsato. Esatto, questo lo chiarirà sicuramente nei 60 giorni in cui ci sarà poi la regolamentazione, quindi l'attuativo sicuramente ci diranno. Però insomma, un piccolo deterrente per farle muovere non è una sciocchezza quella che è arrivata venerdì scorso. E l'altro nostro ospite, uno lo avete risentito, Andrea Corsato, direttore commerciale della rete Gavetti Finance, e l'altro è Roberta Nedda, direttore marketing di Mutui Online. Sentiamo Assenda Milano cosa gli è successo. Buongiorno. Senta, io ho voluto fare la surroga con la mia banca, quelle che ho adesso, che c'è sul conto corrente, no? Però la mia banca ha accettato e tutto, però l'altra banca, la prima in pratica, ha rifiutato, nel senso dicendo che bisogna fare la surroga in due operazioni, nel senso bisogna prima fare l'atto del nuovo mutuo con la mia banca, poi la nuova banca deve mandare i soldi a quella vecchia, cioè quella prima banca, poi dopo loro lasceranno tutti i certificati e faranno un altro atto con un altro notaio da loro. Cioè, loro mi hanno detto perché cioè per le spese, meno spese di tutto. Sì. E poi anche sarebbe divertente capire se a tutti i clienti hanno chiesto una procedura di questo tipo. Cioè, comunque. Sì, loro hanno detto che hanno loro procedure che fanno così. Mm. Che banca è Assen? Tra l'altro ho anche un altro problema, cioè per la il tetto del 4%, sempre con questa banca qua, la prima, che loro proprio non mi hanno dato proprio chiarimento, sì. Proprio niente, non volevo neanche rispondere. Forse ci ha sentito, ce ne siamo occupati di nuovo anche venerdì scorso, di questo problema, e in realtà un po' tutti brancolano nel buio. Sappia che nessuno ha ricevuto la restituzione dell'eccedenza del 4%, ma adesso ci torniamo a Sen. Comunque lei non riesce a spostarlo perché è la prima banca che le fa resistenza. Sì, ma però la prima banca ha detto che lei non può mandare via i soldi senza che loro hanno in mano certificati. Il problema è quello. Allora, rispieghiamo magari un po' come funziona la pratica della surroga. Roberto Nedda, allora io voglio spostare il mio mutuo perché ne ho trovato un'altra che mi fa la condizione migliore. Tra l'altro, spieghiamo anche la surroga che cos'è, che è il trasferimento del vecchio mutuo nelle stesse identiche condizioni di residuo, di tempo da pagare e di ammontare. No, cioè nella realtà correggo, nel senso che l'unica cosa che non cambia nella surroga è l'importo residuo. Cioè, quindi io posso spostare il mio mutuo da una banca ad un'altra a costo zero, a condizione che non cambi l'importo residuo, nel senso del capitale che io devo restituire alla banca. Se io invece chiedo una liquidità aggiuntiva, che pure è possibile, faccio invece un mutuo di sostituzione, in questo caso pago il notaio e tutto. Andiamo alla surroga. Quello che invece si può cambiare con la surroga, fermo l'importo, è la durata, il tipo di tasso, proprio perché questo permette di spostarsi verso una banca che mi fa condizioni migliori o che comunque mi permette di pagare meno o di pagare in maniera più agevole. Per fare tutto questo c'è un passaggio burocratico, anzi una serie di passaggi burocratici che sono stati anche agevolati con delle procedure informatiche da parte dell'ABI, per cui le banche si verificano l'un l'altra, quella vecchia, per verificare di poter ricevere il pagamento dovuto in modo da poter dire... E questo passaggio Sen mi sembra che l'abbia fatto, esatto, che la nuova banca abbia accettato. In questo caso, da quello che spiega Sen, la vecchia banca chiede di fare tutta questa operazione con due operazioni separate, una di chiusura del vecchio mutuo e una, prima il nuovo mutuo, in modo da essere sicuri che ci siano i soldi da poter restituire alla vecchia banca, e poi la chiusura del vecchio. Nella realtà, quella che ormai sta diventando la prassi più utilizzata per questo tipo di operazione è il cosiddetto atto trilaterale. Cosa vuol dire? Che dal notaio intervengono contemporaneamente il cliente, che è quello che poi si sposta verso la nuova banca, e le due banche, di modo che presentano tutti i documenti. Ovviamente prima il notaio ha verificato tutte le cose, fa da garante per entrambe le banche. Quindi siamo un po' all'interno di una di quelle procedure per le quali la vecchia banca, anche se formalmente non pone ostacoli, nella pratica un po' li mette, perché chiede di utilizzare una procedura un po' diversa, che tra l'altro potrebbe essere più costosa per la nuova banca, quindi sarebbe anche scorretto nei confronti della nuova banca che sta prendendo il cliente al suo posto. E questo è sicuramente una delle situazioni, questa è sicuramente una delle situazioni nelle quali si potrebbe applicare la penale, che ripetiamo non è ancora in vigore, ma se la vecchia banca dovesse chiedere tutta una serie di operazioni o chiarimenti che comportano una tempistica maggiore rispetto a quella che normalmente si potrebbe porre, potrebbe essere chiamata a pagare questa penale. A Sen cosa può fare in tutto questo? Ha poco da fare, però magari anche la banca subentrante, conoscendo il problema, si potrebbe anche... E il problema della banca subentrante, il problema è che se la vecchia banca insiste per avere questo tipo di procedura, cioè l'ufficio legale, diciamo così, o amministrativo della nuova banca, non è che può mandare i carabinieri alla vecchia banca a imporle di fare una cosa diversa. Può supportare a Sen per dire, guarda, noi siamo pronti, vorremmo farlo in questo modo, ma ovviamente non può sottostare alla richiesta di una banca che le fa costare magari l'operazione il doppio perché deve pagare due volte il notaio. Cioè ormai è una prassi abbastanza consolidata che il notaio, a fronte di un'operazione di questo tipo semplificata, applichi una tariffa che vada tra i 600 e gli 800 euro indicativamente, che sono sempre a carico della subentrante, ma che è diverso dal fare due atti. Quindi in questo caso Sen ancora una volta deve, uno, fare pressione sulla vecchia banca e anche in questo caso rivolgersi eventualmente anche all'associazione dei consumatori, perché ripeto, sono situazioni che possono essere sanzionate sia, come abbiamo visto, con l'antitrust, come è già successo, e in questo caso anche con la futura penale di prossima introduzione. Sentirei Danilo da Roma, perché ho una bella domanda per Andrea Corsato. Danilo? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. La mia domanda è semplicissima, adesso le spiego. Prendo io un mutuo ipotecario per liquidità, in quanto su un immobile donato non mi veniva concesso mutuo per ristrutturazione. Quindi le lascio immaginare i tassi, insomma, altissimi che... infatti, guardi, già se lo stanno immaginando gli ospiti di stamattina che stavano annuendo, già presagendo quello che ci avrebbe... Non mi veniva fatto un mutuo per ristrutturazione su un immobile donato, quindi sono stato costretto a fare questo mutuo per liquidità. Ora la mia domanda era, è possibile fare la surroga anche su un mutuo per liquidità? Che bel punto interrogativo. Bella. Andrea Crosato. Boh, magari... Tecnicamente sì. Poi dobbiamo andare alla tecnicamente, nel senso che la norma dice che un mutuo fondiario, di fatto è un mutuo fondiario, può essere surrogato. Poi praticamente sta alle politiche del credito delle banche. E quindi insomma è demandato un po' da banca a banca. Ci sono banche che lo fanno, altre no, perché il mutuo di liquidità viene visto come un mutuo a rischio, e quindi un mutuo che è stato concesso non per comprare una casa ma per fare altro. Sì, ma che importi hanno mediamente? Non saranno neanche altissimi? Ma si arrivava, ai bei tempi si arrivava a fare anche il 60% sul valore dell'immobile di liquidità, quindi. E quindi ci sono mutui in circolazione. Abbiamo ancora Danilo, Peter. Danilo? Sono qui. Sì, no, così stavamo un po' facendo gli affari suoi in maniera un po' più approfondita per capire anche quale fosse l'importo, per capire anche quale... Guardi, la casa ha un valore di 400.000 euro e il mutuo è su 80.000 euro, quindi c'è una percentuale bassissima infatti, al valore della casa. Di cui un po' avrà già restituito, peraltro, per cui magari è un importo adesso anche... Sì, effettivamente sì. Ma secondo me è sicuramente un'opportunità per le banche. Ha provato a chiedere Danilo o adesso? Io ho provato presso la mia banca e niente, non, tra l'altro sono correntista da 15 anni e non voglio sì, fare... Sì, ma abbiamo già spiegato prima qual è la dinamica dell'amicizia fra banca e cliente. Danilo, si guardi un po' più intorno, magari non so se ci vuole scrivere, io sono sicura che magari troveremo qualcuno con cui farle fare una chiacchierata, qua non vedo l'ora di mettere le mani sul nuovo cliente. Ci proviamo Danilo, perché mi sembra veramente una sciocchezza che su un importo così piccolo che veramente può che si possa trovare insomma una soluzione. Abbiamo delle novità, chi possiamo sentire? Sentiamo Massimo da Mantova. Ah, questa è bella, questa di Massimo. Massimo, grazie del fatto che sia bella. Eh sì, perché questa, guardi, io non so se riusciremo a darle un'indicazione, ma siete pieni di cani stamattina a casa. però poniamo l'attenzione anche. Sono arrivato a casa da buon marito, mi sono sulla pasta prima io. Grande, grandissimo. Grandioso. Invidia. Sì. E oltre a questo, Massimo, ovviamente lei controlla un po'. Sì. Oltre a questo, posso aprire la porta un secondo? Mi scuso, mi avete messo in televisione, non lo devo... Apro solo... Aspetti. Sì, allora guardi, magari se sono pronti... Sono qua, non si preoccupi. Allora, per farla breve, io ho un mutuo a Lanton Veneto, ho chiesto la portabilità al Monte dei Paschi perché c'è un variabile con un cap al 5,5% che mi piaceva, mi hanno risposto che non si portano via i mutui fra stesse banche del gruppo. Ah, io sa che farei, Massimo, andrei proprio da un'altra parte direttamente, aspetti lì che questo è veramente divertente. Eccoci ritrovati in diretta, allora questa mattina ancora una volta sui mutui, siamo ritornati, possiamo farci mancare una puntata a settimana su questo argomento, giammai a giudicare dalle vostre telefonate, continuate a gradirlo enormemente, noi andiamo avanti con questo nostro grande cavallo di battaglia e poi i vostri casi ovviamente non fanno altro che alimentare l'attenzione intorno a questo argomento perché le stravaganze non ci mancano. Massimo da Mantova ha un mutuo con Banca Anton Veneto, una banca che è stata acquisita da Monte dei Paschi, è stata l'ultima delle grandi aggregazioni nel nostro consolidamento bancario e Massimo dice però insomma nel medesimo gruppo si fanno delle condizioni diverse, il mutuo di Monte dei Paschi mi piace di più di quello che ho con Banca Anton Veneta, però pur facendo prodotti diversi all'interno del gruppo bancario non si spostano i mutui, quindi non si fanno una concorrenza sleale tra di loro. Roberto Anedda, cosa ci suggerisce questo caso? È il solito problema delle reti bancarie che si ristrutturano, si accorpano, cambiano insegne e così via. C'è sempre un periodo di interregno in cui non si capisce se sono separate o se sono tutt'uno. Nel caso specifico di Massimo, che tra l'altro è stato bravo e attento a identificare questa nuova opportunità di Monte Paschi, che è sul mercato da pochi mesi e soprattutto è stata estesa alla surroga di recente, ed è effettivamente un ottimo prodotto perché pur essendo variabile, quindi approfittando dei tassi ai minimi di adesso, dà la garanzia che anche in futuro il tasso non salga mai oltre il 5,5%, quindi ai livelli di un buon fisso di adesso. E il suo problema è che appunto, essendo della banca cugina o fratellastra, sorellastra di Monte Paschi, ci sia questa non belligeranza interna. Ovviamente. Però l'idea che ci proponevi a microfoni spenti è bella. Esatto, appunto l'idea, siccome poi non è la prima volta che succede anche con istituti di altro tipo, se da un lato è vero che tra istituti dello stesso gruppo magari non si facciano surroghe, che avrebbe anche poco senso, però poi non può valere, diciamo, nella pratica la regola che l'istituto è uno se bisogna fare la surroga, ma se invece uno vuole le migliori condizioni disponibili all'interno del gruppo, invece i due gruppi sono separati e quindi uno si deve tenere sto bel mutuo nuovo, si può andare allo sportello di Anton Veneto, dice guarda un po' di là che cosa ci avete, perché voi non lo potete fare? Esatto, e io a quel punto contatterei sia Anton Veneto sia Monte Paschi facendo presente, scusate, io sono vostro cliente, sono cliente del vostro gruppo, mi dite che proprio in quanto gruppo insomma unitario non vi potete fare concorrenza, però perché ci devo rimettere io che sono sempre vostro cliente? Per cui a questo punto troviamo la soluzione di modo che io possa, a questo punto neanche con una surroga, che sarebbe assurdo perché la banca dovrebbe pagare un notaio, si fa una sorta di rinegoziazione che quindi è anche a costo zero non solo per il cliente ma per la banca, con l'adattamento al suo mutuo delle condizioni rilasciate da Monte Paschi. E altrimenti, ripeto, è un po' il giochino delle tre carte, quello di dire no, siamo lo stesso istituto, non ci facciamo concorrenza, però i due prodotti sono separati, no, perché sono due banche diverse. Non è una risposta corretta. O sono sempre diverse o sono sempre la stessa banca. 800 24 00 24, il numero verde per le domande degli ascoltatori. C'è un ascoltatore che ci scrive, mi potete spiegare che cos'è non è per voi la domanda, state tranquilli perché sennò svengo, no? La certificazione energetica è entrata in vigore da oggi, io devo rogitare fra 20 giorni, domani Emanuele abbiamo proprio la puntata su questo argomento, per cui domani siamo ancora in tempo a salvarle il rogito. Florin da Padova, Florin, nome maschile e femminile, buongiorno. Sì, maschile. Maschile. Avevo solo una domanda. Sì. Avevo fatto una surroga un anno fa, chiedevo se riesco a cambiare ancora un'altra banca, di fare un'altra surroga. Allora, Florine, beh, teoricamente, come dire, la portabilità del mutuo vorrebbe spalancare le porte proprio a tutta questa grande flessibilità sul nostro mercato. Se ha trovato un'altra banca che le fa ancora una condizione che le piace di più, Andrea Corsato, non vedo, assolutamente sì, non vedo i motivi. Può portare, non c'è un limite. No, infatti, qui il limite è, come sempre, tornando a quello che dicevamo prima, sul fatto che la nuova banca può eventualmente rifiutare l'operazione. Diciamo che al di là della valutazione di credito, se il passaggio da una banca all'altra, quindi la surroga ripetuta, diventa tra virgolette uno sport del cliente, via via sarà sempre più difficile trovare un istituto disposto, esatto, ad accettarlo. È come qualcuno che ogni sei mesi cambia lavoro, all'ennesimo datore di lavoro dal quale si presenta si comincia un po' a guardare, è difficile con che quello con facilità lo assuma, insomma, questo è un po' il problema, viene quindi considerato un po' il rompiscatole del mondo bancario, tenga conto, che se ne può, del credito, però, ma se però, insomma, magari evidentemente se gli è venuta questa tentazione, però anche lì è un po' come dicevo anche nella puntata scorsa, perché c'erano ascoltatore che ci raccontava che lui, siccome è un affezionato del mutuo a tasso variabile, insegue l'Euribor a un mese, aveva più volte spostato il suo mutuo, però ecco lì c'è anche una questione di avere il tempo di tenere sotto osservazione un po' tutto quello che accade, e lì bisogna anche, dipende un po' anche dalle nostre abitudini, dalla nostra capacità di così monitorare i nostri investimenti, che dovrebbe essere una padronanza tipica della nostra, però non sempre ce la facciamo. Comunque, Andrea Corsato, volevo avere qualche informazione in più rispetto alla vostra rete, voi intermediate mutui di quante realtà bancarie? Noi oggi abbiamo in pratica 7 convenzioni bancarie, le utilizziamo tutti e 7, nella maggior parte dei casi ne utilizziamo 4, diciamo sono le banche oggi che in Italia erogano mutui a tassi convenienti in tempi decenti, mi piace dire così, oggi, e quindi ci concentriamo su quelle che sono le banche, cavalchiamo le banche che in questo momento in Italia erogano i mutui buoni, quindi, e non è sempre la stessa. Qual è la qualità di un mutuo buono, la caratteristica di un mutuo buono? Ma sicuramente avere uno spread conveniente per il cliente che ci troviamo di fronte, è sempre più legato lo spread a quello che è la storia delle politiche del credito, dei pagamenti, quindi del nostro cliente, quindi la storia creditizia del nostro cliente. Oggi le banche dati, insomma, fanno un po' da padrone in questo, nel bene e nel male, ma lo fanno, e quindi quello di trovare il mutuo giusto per il nostro cliente. Cioè noi poniamo molta molta attenzione nella consulenza, e ad esempio una cosa che non sottovalutiamo è quella di chiedere al cliente per quanti anni terrà questo mutuo, o meglio la casa che ha comprato, perché è diverso dire io la mia casa la cambio tra 5 anni perché oggi compro un bilocale, poi la mia famiglia si allarga e comprerò un 5 locali. Non sempre il mutuo a 30 anni, se lo riportiamo invece a 6 anni, che è quello della vita media oramai di un mutuo con la portabilità, non è detto che il tasso fisso e il tasso variabile convengano allo stesso modo, cioè oppure anche proprio lo spread che ci applichiamo sopra. Quindi la consulenza è spostata anche proprio al modo di vivere, cioè a quanti anni pensi di tenerlo questo mutuo? No, io la ringrazio per aver fatto queste precisazioni, perché come abbiamo avuto modo di dire ancora una volta nella puntata scorsa, ma lo facciamo sempre, inseguire solamente il tasso di interesse quando si sceglie di stipulare un mutuo, quando si sceglie il mutuo che fa il caso proprio per l'acquisto della casa, che può essere la casa della propria vita o la casa nella quale abitare per i prossimi 2 anni, perché è il monolocale che ci fa abitare nella città che abbiamo scelto dove lavorare per qualche anno. Per cui ecco, questo è anche ciò che dobbiamo chiedere al nostro consulente se andiamo dal mediatore o dal nostro consulente se andiamo in banca. Anche Corsato, ribadiamo un po' questi concetti che mi sembrano fondamentali. È importantissimo. Non inseguiamo solo il tasso. No, assolutamente no, perché dobbiamo capire appunto se è un investimento, perché compriamo quella casa, quanto ci vogliamo stare, eccetera, eccetera, le nostre entrate, quindi se le mie entrate aumenteranno nei prossimi anni, se sono un autonomo, se sono un dipendente. E di questi tempi, insomma, quello che sono i redditi delle famiglie italiane li conosciamo. Quindi è molto importante la consulenza, secondo me, del professionista, proprio perché ti consiglia non solo un fatto di spread, insomma, o di tasso puro in questo momento. Esatto. Poi, soprattutto Roberto, in questo momento effettivamente la consulenza è importante, lo vediamo anche noi, perché è un momento che al di là di avere tassi molto bassi, che potrebbero quindi far sembrare la scelta più semplice, fortunatamente ultimamente si sono aperte diverse opportunità con prodotti diversi. Abbiamo citato questo con il CAP, per chi vuole scommettere sul variabile, ma anche variabili puri. Ce n'è qualcuno anche legato per esempio al tasso di remunerazione del conto corrente che eventualmente va, esatto, a coprire l'aumento del tasso. Ci sono quelli, non dimentichiamoli, legati al tasso BCE, che comunque è all'1%, potrebbe, sì, scendere ulteriormente. Sì, che abbiamo un po' trascurato ultimamente. Esatto, che comunque a questi livelli è un'ottima garanzia. E anche in promozione, anche in questo periodo, banche anche importanti italiane con dei prodotti anche a tasso fisso, a tassi nuovamente sotto il 5%. Mm-hmm. Quindi è un segnale di risveglio anche da parte dell'offerta delle banche, quindi lascia ben sperare, sì, come diceva anche Roccato prima, per il resto dell'anno. Il certamente non si però può forzare la gente a fare il mutuo, però questo è effettivamente uno dei momenti che, visto unicamente dal punto di vista del mutuo e dell'acquisto dell'immobile, è forse la migliore opportunità in assoluto. Siamo ai minimi storici. È che probabilmente comunque una banca che ci accontenta per un importo molto elevato è difficile trovarla rispetto al valore della casa. Forse questo adesso è il problema. Bisognerebbe essere nelle condizioni economiche di dare un bel anticipo, purtroppo, e non tutti se lo possono permettere. C'è Sebastiano da Milano. Io, Sebastiano, non la faccio intervenire perché non abbiamo più tempo, ma leggo io la sua domanda ai nostri ospiti. Vuole cambiare il mutuo da 15 a 10 anni, fare la surroga? C'è da pagare o no? Chiede banalmente Roberto Nedda. È lo stesso discorso di prima. Che facevamo in questo prima. Caso cambia, l'importo rimane lo stesso, cambia la durata e anticipando approfitta del fatto che paga pochi interessi e riduce anche la durata del mutuo e lo può fare tranquillamente. E ci faccia sapere come va, Sebastiano. Grazie, grazie a Roberto Nedda ed Andrea Corsato, grazie per essere voi, stati insomma, con grazie noi. Quindi domani appuntamento con la certificazione energetica. Mi raccomando, vi rivolgo tutti qui, numerosi come oggi, con i mutui, non voi due. State tranquilli, ho altri ospiti. Buona giornata, domani.